Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. 24 mattino. L'Italia si desta. Di Alessandro Milan. L'italiano è così individualista che sta diventando come un attaccante del calcio balilla che non ha mai visto in faccia i suoi compagni di squadra. Ma in fondo per noi l'importante è precipitare. L'italiano batte le mani quando il suo aereo è a terra, ma non batte ciglio quando il paese affonda. L'italiano fa casino durante il minuto di silenzio, ma poi sta in silenzio per anni quando dovrebbe far casino. Mi hanno informato di una ragazza che sanguinava e non so dirvi la dinamica di come questa ragazza si sia fatto male, se il fatto che mi sono prodigato per primo a chiamare l'ambulanza e successivamente mi arrivava un pugno in faccia ingiustificatamente senza nessun motivo, un bicchiere probabilmente, e mi si è rotto un labbro e quindi decido di chiamare la polizia per ristabilire un senso di civiltà nella situazione e per identificare la persona che mi aveva aggredito. In Italia le mamme fanno le raccomandazioni mentre i figli di papà si fanno le raccomandate. E non ho assolutamente insultato nessuno, anzi un poliziotto senza minimamente accertarsi di quello che stavo dicendo mi ha accusato di aver tirato questa bottiglia in testa alla ragazza e alla mia richiesta di ripeterlo in video ovviamente non l'ha fatto perché si trattava di una mera non minaccia, una maniera per intimorirmi sostanzialmente. Mi sono spaventato e ho cercato di difendermi con l'arma che potevo, ovvero un telefonino, e riprendere cercare di riprendere gli insulti, ma ovviamente nel momento in cui li riprendevo non li ripetevano. Wanted. Ora invece sotto quelle foto ci trovi scritto votami. E comunque esattamente 5 secondi dopo che io esco dalla questura per sporgere denuncia per aggressione e abuso di potere, la questura di Milano fa uscire un'ANSA dove mi dipinge come un pazzo psicopatico. Questo si collega a un pregresso che è un avvenimento in cui un sindacato di polizia mi dà dell'invertito e ovviamente nessuno in quel momento ha gridato allo scandalo. È l'italiano che allo stadio urla negro a Balotelli, ma poi dal parrucchiere per il taglio di capelli. È così. Fedez contro la polizia. Oh, devo dire una cosa a favore di Fedez subito. Fedez ha fatto benissimo a riprendere con il telefonino. Io non lo so cosa sia successo. A riprendere col telefonino quando è arrivata la polizia. Allora, sono da due giorni, no, di più, tre giorni, quattro giorni, che sono entrato in un trip su YouTube e mi sto guardando decine e decine di filmati di cose simili che avvengono in America. Negli Stati Uniti voi dovete capire che una persona che viene fermata a un controllo di polizia, non so, magari su strada, ha diritto a non dire nulla, a non rispondere. A non rispondere alle domande, a non dare la carta d'identità, perché se non è accusato di niente è libero di poter andare per la propria strada. Ci sono queste scene di 20-25 minuti con il guidatore barricato, la polizia che gli dice per favore può aprire la porta, no, per favore mi dice lei chi è, I don't answer questions, non rispondo alle domande, e ovviamente fanno tutto questo ripresi con il telefonino, si riprendono queste persone perché lo fanno a propria tutela, quindi io non lo so che cosa sia successo in quella serata al Just Cavalli in cui Fedez è accusato di aver fatto, di aver gettato un bicchiere in faccia a una ragazza, di averla ferita, di aver aggredito i poliziotti verbalmente, mentre lui dice sono stati loro che hanno aggredito me. Una cosa so che ha fatto e ha fatto bene: riprendere tutto col telefonino, perché tante volte un'immagine serve a tutelarsi da chissà cosa, da tutto quello che può succedere. E vabbè, iniziamo con Fedez, sì, è su tutte le prime pagine dei giornali, eh? Una rissa al Just Cavalli, che è un locale di Milano. E non si capisce bene la dinamica. Sta di fatto che qualcuno lo accusa di avere ferito una ragazza lanciando un bicchiere che ha rotto uno specchio, e un pezzo dello specchio ha colpito il volto della ragazza. E da lì, figurarsi poi, come dire, poi vai a capire chi ha ragione, vai a capire chi ha torto. Tanto è solo un sogno. Sono le 6:34 minuti. Paolina, questa Paolina, Paolina, così. Paolina spiritosa. Buongiorno, così. Buongiorno. Buongiorno Paolina, Paolina Saluzzi. Buongiorno, buongiorno Alino, buongiorno Alessandro. Stiamo ascoltiamo. Dal 2015 Evviva le Rosse torna, ma diventa Evviva la Paola con Paola Saluzzi e Paola Saluzzi, special guest Paola Saluzzi e altri pettizi di cui non ce ne frega assolutamente nulla. Paolina, Paolina, Paolina, Paolina. Sì, a due tizi, come al solito è un tizio. Allora succedono queste cose strane, per cui ogni tanto, sai che il nostro Luca Dini entra in queste bolle di comunicazione strana, per cui adesso dirà: ma no, io sono qui, però risulta spento il cellulare di... Ma secondo me, secondo me c'è una vita nascosta da 007. No, dai, no. Sì, sì, sì, sì, sì, lo immaginiamo agente al servizio di sua maestà. Chissà cioè, dove disperso. Sì, che dice? Sì. Dice vado in redazione a Vanity Fair, si nasconde, no, deve no, fare... Il nostro super dir, non si nasconde. È semplicemente che quei telefonini a cui tu facevi riferimento poco fa, ogni che tanto sono tanto utili, ovviamente, in tante cose, a volte non funzionano, diciamola tutta. A volte la linea non prende, e quindi è così. Ma adesso tra poco ti chiederò di Fedez. Ma tu lo sai intanto, Paola, che oggi non è un giorno qualunque, No? Non è un giorno qualunque, oggi è il compleanno del nostro alpino Peter Mascafè in regia. Signori, tanti auguri a te, tanti auguri a te, viva sempre l'alpino. No, tanti auguri a te. Questa è la sindrome di Milan. Questa Peter Mascafè se la taglia e se la mette sul telefonino come suoneria con Paolina. Ma devo dire una cosa a tutti i nostri amici che ci ascoltano, vicini e lontani, che stamattina per un attimo ho sentito anche la voce dell'alpino. C'è stato un attimo in cui il collegamento è passato misteriosamente attraverso un centralino che mi ha No, non è misteriosamente, sentito. È che per l'ennesima volta qua non vanno i telefoni al mattino. Io la prossima volta che succede lo dico, non vado più in onda. E per evitare il nostro Luca, che col suo telefono non troviamo il nostro direttore. E per un attimo ho sentito: Paola, sono Peter, ti passo la linea. Così, Paola, sono Peter. Così, l'alpino nazionale. Sono l'alpino, però lasciami stare, adesso ti passo diretta. Sono l'alpino, vado a fare. Ti ha pure anche un po' sfanculato, diciamo la verità. Ma non è vero, questo non è vero, però auguri. No, lo riprenderò subito finita la trasmissione. Intanto, ma non è vero, non si tratta così, bene, Paolina, sì, Paolina, la generalessa. Mi coccolano, super auguri Alpino. Comunque, va bene, super auguri. Andiamo oggi insieme. Oggi è la festa della Marina, tanto per cos'è? Oggi è la festa della Marina. Esatto. È la festa dell'Alpino, è la festa della Marina. Della Marina, Andiamo. Alpino, vuoi aprire il Parlamento dopo i tuoi cori? Non lo so, Saluta anche Lorenzo Nespoli in redazione. Vado a prendere un caffè. No, adesso io non è che la notizia del giorno sia Fedez. Ecco, però vedi subito, Paola, gli ascoltatori subito mi scrive: sei con Fedez anche se ha ferito una ragazza. Ah, che cosa ne sai tu se ha ferito una ragazza, caro ascoltatore? Non lo sappiamo, non sappiamo come siano andate le cose. Però ha fatto bene Paola a filmare tutto. Sai, ma tu non li hai mai visti questi filmati in America? Sono terribili. Sì, questi filmati a cui tu facevi riferimento diciamo che imbarazzano perché... imbarazzano, nel senso, è un tempo lunghissimo, quel tipo di ripresa dilata il tempo, no? Sì, sì. Per cui una persona a cui viene richiesto, ti ho fermato, chiedi i documenti, chi sei, tecnicamente di questi tempi, ma non solo di questi tempi, potresti avere un'arma a bordo, sei matto, ti chiedo di aprire i suoi segnali di matto. Invece c'è diritto a dire: io non devo rispondere a nulla e sono libero e posso andare per la mia strada. Sì. insomma, non ho nulla. Questo in America, se... questo in America. Sì, in America, dove poi capita anche che ti fermino e magari succedano cose meno opportune, no? Viste le ultime immagini, gli ultimi danni che ci sono stati, ma questo poi appartiene sempre al singolo, non appartiene al concetto di polizia o di forza dell'ordine. Se uno esce matto e spara al ragazzo che sta scappando e gli spara di spalle, quello è un problema singolare e personale. Sicuramente questa storia segnerà un punto di ripartenza, cioè io ho filmato tutto quello che è successo, lo metto a disposizione di chi? Di un avvocato, di non so chi, è chiaro. E da lì scopriremo. Diventa un po' una sindrome del... L'altro giorno ho visto una cosa per strada, ho detto, sai che ho visto delle persone che stavano facendo, ma niente di che. Mm-hmm. E la risposta è stata, perché non le hai ripresi col telefonino? Hai visto. Hai visto? Sì, no, ma infatti, no, ma certo sarà... In una specie di comunità. No, ma per carità, non è la dittatura dell'immagine, però secondo me ha fatto bene a filmare. Sicuramente perché... ha messo a disposizione quello che è successo in maniera incontrovertibile attraverso le immagini. Ecco. Oh, però io vorrei capire subito una cosa da te, la nostra Paola Saluzzi, che magari se ne occuperà anche oggi alle 15. Ho visto questa foto di Ignazio Marino, soprannominato da Libero ormai Ignaro Marino. Vabbè, insomma, succede questo. Però è il tuo sindaco, no? Il tuo sindaco, quindi ne saprai molto più di noi che siamo a Milano. Ieri c'era questa manifestazione del Movimento 5 Stelle, onestà, insomma un po' di assedio al Campidoglio. E Marino, c'è questa foto di Marino che esulta, come se avesse fatto un gol. E tutti oggi si chiedono sui giornali, ma cos'ha da essere così carico, così esultante in questo momento, Marino? Allora, intanto sì, la manifestazione, e parliamo della manifestazione interna, perché quella che era all'esterno è sembrata alla fine manifestazione del Movimento 5 Stelle e poi tutti violenti, e non era così perché c'era dentro un po' di tutto, insomma, questo lo dico a onor del merito, se no sembrava che la carica fuori di gente che volesse entrare a tutti i costi fossero solo 5 Stelle, comunque non sto qui a fare sicuramente il loro avvocato e non ne hanno neanche bisogno. Fa parte di Marino, questa, secondo me, questo modo di c'è un modo di dire, voi mi criticate e io voi mi criticate, sapete cosa c'è? Io sono un sindaco, un cittadino sindaco pulito, alzo le mani in segno di vittoria e vi dico che io in tutta questa vicenda non c'entro niente, non sono stato sfidato. Certo, vederlo sorridente alla Winston Churchill che alza le mani così fa un po' impressione perché perché ieri è successo questo. Ieri è successo questo in Campidoglio, come racconta il Fatto Quotidiano. Sostituzione! C'è stata la surroga, si chiama così, surroga. Surroga. Sostituzione! Esce l'arrestato Tredicini, entra Alessandro Cochi, indagato per mafia capitale. Sostituzione! Succede questo. No? Fuori l'arrestato, dentro l'indagato. E questo... Vabbè, ci stiamo domandando a livello, se dovessi dirti che qui c'è una città turbata che la mattina si sveglia e dice orrore, purtroppo non c'è ancora tutto questo. Ma appunto, senso. Ma la gente ne parla nei bar di certo quello. La gente ne parla, gente ne parla con una e forma di da una parte. Ma te sei visto, ma che schifo è, ma tutto c'è il più pulito c'ha la rogna, cioè queste esatto, cose. È meraviglioso il romanesco del nostro Milan, da una parte così, dall'altra con quella attitudine purtroppo capitolina dire ma sono tutti uguali è errore tragico, perché non si può dire sono tutti uguali, quindi sarà sempre così. Ci si domanda, questo sì, se sia giusto che un comune venga commissariato, che una città che è la capitale si trovi nella condizione di vedere che venga commissariato. Questo è un rischio, rischio, perché ti trovi di fronte al mondo in un'immagine che non è troppo diversa da quella però che sta avendo in questo momento. Ci deve essere uno schieramento da parte del Partito Democratico e di chi sostiene Marino a tutela. Certo, se devi cambiare la squadra la devi cambiare con persone timorate di Dio, su cui è stabilito che se tu sei alcune ricevuto le ha cambiate. Di garanzia di garanzia è garanzia per chi lo riceve, insomma. Comunque le ha anche cambiate alcune sono state arrestate poi, come l'assessore Ozimo. Comunque senti qua Crozza, il buon Crozza, Crozza, ecco, su Roma. Crozza su Roma. A Roma Non c'è più il grande raccordo anulare, c'è il grande accordo a rubare. Com'è possibile? Perché oggi per Mafia Capitale Giovane hanno arrestati altri 6, una settimana fa 44, 6 mesi fa 40. Cazzo, un turista se quest'estate va a Roma trova più coda Regina Celi che ai Musei Vaticani. Com'è possibile? Vabbè, insomma, che devi fare? Sembra un po' il clima effettivamente di Mani Puliti, avevo 18 anni allora, quando se ne arrestavano a frotte, no? Altri 10 dentro, altri 20 dentro. Non lo so. C'è poi Buzzi che dice se parlo, se dico, chiude il governatore, perché se parlo chiude il governo. E la l'agenda di Buzzi, che ovviamente segna tutto. Ah sì, hanno trovato l'agenda di Buzzi, l'agenda di Buzzi. Sì. E adesso stanno studiando ovviamente giorno per giorno tutti gli appuntamenti. In una... Ha segnato anche tra le altre cose, sì, insomma, la febbre della figlia, eh? No? La febbre della figlia. Che tenero, ma dai. È la data della morte di Lucio Dalla. Sì, è anche un giorno è morto Andreotti. Ho segnato in giallo, così. Andreotti a Roma, giustamente. Vabbè, insomma, che devi fare? Questo è. Ma Crozza, tra l'altro, pare che abbia iniziato un'altra straordinaria imitazione. Giovanni Toti, il neo governatore della Liguria, quello che vuole che vengano restituiti i 3 Marò, che poi sono 2. Così, l'hai sentito a Porta, che ha detto... ho sentito, ma ho letto anche il Twitter di Toti che ha detto sì, che ha chiesto scusa, ero stanco. No, ah, no, di nuovo Ligure. Un grande Ligure. Crozza andrebbe clonato, insomma, ha fatto grandi complimenti. Ah, vabbè, sentite l'imitazione di Crozza del neo governatore della Liguria. Da Bruno Vespa, Toti se n'è uscito dicendo che dobbiamo riportare a casa i nostri 3 Marò. 3 Marò? Cioè, già è difficile riportarne a casa 2, figurati 3 di cui uno è invisibile. Io mi aspetto grandi cose da Toti. Sai che lui parla come Yogi, no? Per la Liguria, come primo intervento, stavo pensando a una tangenziale Genova-Corsica e poi vorrei valorizzare anche le famose 6 terre e le città di confine come 25 miglia e tutto lo spezzino fino a Catania. Bubu. Vabbè, dai. Viene presa con ironia, è cosa buona. È bello viverla così. Allora, siamo con Paola Saluzzi, siamo al traffico. Luca Dini sempre, non lo so, ma sono sicuro che dirà, ma io ero qui ad attendere la telefonata. Esatto, questo diciamolo per tutti i nostri amici. Ormai. L'uomo, il nostro leone del mercoledì, sì. In questi casi dice con la voce british, ma io ero qua tranquilli, siete voi che non mi avete chiamato, vabbè, tanto andiamo al traffico. Intanto ribadiamo, è il compleanno dell'Alpino ufficiale, sì. Peter Bescapè, i nostri auguri, i suoi 26 anni, 27 circa, 24, andiamo. Il primo premio va al traffico con il pelo lungo, le corna belle. 24 mattino. Dice che in fatto di accoglienza migranti il Lazio sia tra le regioni virtuose, dopo essersi spartiti tra Buzzi e Carminati. Ciao Alessandro Mille, sei troppo buono coi Rom, troppo buono coi Rom. Alino ti insegna a fare le moltipliche. In Italia ci sono 78.000 rifugiati. Ogni giorno sono quasi 300.000 euro. Per 365 giorni sono 10 miliardi e 600 mila. Dove andiamo a trovarli questi soldi? Mi che dici in confidenza che gli non piena la scuffia de tu squai che slapetten de su e de ciodo, ma perché gan la lingua in bocca. Basta tasse, basta tasse, basta tasse. Ma signor Milan, ma voi che cazzo tenete in gabbia, signor Milan? Scusate. Sono sveglio di già, sono sveglio di già per sentire Alessandro Milan. Vabbè, adesso li raccattiamo tutti, cara Paola Saluzzi, e li riportiamo dentro, nel senso a riposare. In che senso? No, ma hai lanciato senso? Comunque, guarda che tu hai lanciato un popolo di gente che canta al mattino. Un popolo di gente che canta. Ma su Libero non pubblicano più le canzoni, non fa niente, su Libero. Non fa niente, nel senso, aspettiamo che le ripubblichino, ovviamente. Certo. Mancherebbe. Ma hai lanciato questo popolo di gente che canta. Ma è bella questa cosa, la gente che si sveglia cantando. Bella, canta che te passa. La gente che si sveglia tutta arrabbiata. Oh, allora, canzoni, vuoi una canzone? Buona canzone. Assolutamente no, ma commentiamo allora, no, una canzone da me, non una canzone da me, ma cantata da me, ma da nostro Mario Platero si è presentata Elsa Fornero. Ora tu penseresti mai con la sua calma sabauda che Elsa Fornero si potesse prodigare in un canto? No. E invece, guarda, qui a Radio 24 succede. Elsa Fornero, richiesta della canzone preferita, ha cantato, che cos'è? Twinkle, Twinkle, Little Star. Che cos'è? Ha scelto questo. Oh, Elsa Fornero che canta. Senti qua, pronta con la paletta, da 0 a 10. Pronta. 0 a 10. Vabbè, ho sempre con me i microfoni America 24, Elsa Fornero, ex ministro del lavoro. Allora, scelga lei per noi la canzone del giorno. Mi viene in mente... Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Perfetto, twinkle, twinkle, quindi abbiamo parlato, sì, di giovani e del futuro. Sì. Mi viene in mente questa. Star, how I wonder. Oh. È la nenia per gli esodati. È la nenia per fare addormentare tutti gli esodati d'Italia. Twinkle. No, questa è brutta, questa è cattiva, eh. Ah, se ci sente la prof Fornero. Le è stato chiesto e lei, che è una donna, ha cantato. Precisa, ha cantato. Attenzione, non ha detto mi piace questa canzone, l'ha cantata. Ha detto mi piace e ha intonato Twinkle, Twinkle, Little Star. Ma ti rendi conto? Ma mi sembrava, no, me l'ho persa. Mi sembrava anche molto intonata, eh. Sì, anche molto intonata. Devo dire anche con la voce molto impostata. Sì, non è questa, eh. No, vabbè, adesso questa no, dice, sembra Nicca Costa così. E perché se la Nicca Costa! Che bel ricordo, Nicca Costa, avevo... Ti chiedevi perché sta bambina di 9 anni dovesse cantare in maniera così... Mamma mia, splendida, insomma, di voce, è così triste. Così la bambina che cantava, a 9 anni invece di cantare, cantava una canzone. Così triste. Era triste dentro. Nicca Costa. Vabbè, ragazzi, oggi no, abbiamo un po' sorriso anche perché i giornali regalano solo tutta questa cosa di immigrazione, migranti. Questa, ci vuoi, forse te ne occuperai anche oggi alle 15, non lo so, adesso ce lo dici. Ci vuoi dare una perla di saggezza, cara Paola? Perché io vedo litigare le istituzioni italiane come in terza elementare. Noi vi diamo più soldi, noi vi togliamo i soldi, noi vi mettiamo di qui, noi li mettiamo di qua, ma noi li mettiamo di su, e se voi fate questo noi ti togliamo quello. Cioè una gestione di una cosa così grave. Una volta dicevamo è iniziata la campagna elettorale, ma è finita. Abbiamo un problema, Houston, non riusciamo a fare lo switch off, sì. Non riusciamo a uscirne, no? E da una parte, dall'altra forse il problema vero è i soldi dati, e lo sta dimostrando questa vicenda che la città capitale d'Italia sta vivendo, stabilito che poi ce ne andiamo anche al Cara di Mineo, quindi non chiudiamo i confini. Il problema non sono soltanto i soldi, ma come vengono spesi. Perché se tu vedi un bivacco alla stazione centrale di Milano alle 9 del mattino e vedi gente che dorme nei giardini e gente che dorme sulle scale, ti chiedi, perché quelle sono persone. Perché poi, come ha detto l'ascoltatore, tutti sti soldi, sì, ma poi quando si scopre di tutti sti soldi, li mangiavano. Allora, la mia domanda continua a essere sempre quella, prima o poi riceverò risposta, ma se ne è accorto qualcuno che per un servizio che costa 10 il prodotto offerto costasse 0,5 appunto, con tubature dell'acqua appunto. Rotte. Dove vanno tutti questi soldi? Se io pago 100 in un ristorante e mi portano il piatto di plastica e neanche la forchetta, interrogerò bene sul perché io debba pagare. Ma infatti la colpa, caro ascoltatore, non è tutti i soldi che vengono non utilizzati soldi, per questo, ma come vengono spesi, se li mangiano. Che le regioni, che i sindaci si sentano dire dal governatore della regione Lombardia, basta, non vi do più denaro, ma non vi do più denaro per che cosa? Per gestire questo problema oppure... Sì, ma poi non ma mi do più denaro, in generale, non perché abbia fondato la Repubblica del Nord, Maroni, voglio dire, non può fondare. No, infatti, ma poi non può fare. Non lo farebbe mai, tra l'altro. Comunque, Paola, oggi alle 15 so che ne parlerai. E, salutiamo anche il nostro direttore Luca Dini, dicendo che in copertina di Vanity Fair c'è un'Angelina Jolie. Porca, ragazzi, ritratta quando aveva 23 anni. Ah, però. Forse

Oh, non ho parlato della scuola, c'è poco tempo come al solito. Comunque la scuola, sapete, nel disegno di legge il governo è andato sotto, meglio, è andato in pareggio, 10 contro 10. I voti in commissione sulla costituzionalità o meno del provvedimento della riforma della scuola, 10 a 10 vuol dire bocciatura al Senato. Ma Renzi si dice sicuro, dice in aula i numeri saranno diversi. Comunque... c'è anche, vi segnalo un bel servizio di Avvenire, riprende la BBC, pagina 4 di Avvenire, sono le prime immagini che la BBC si è procurata dopo mesi di fatica da Mosul, occupata dallo Stato Islamico nel nord dell'Iraq. A un anno dalla caduta, i primi video rubati e si vedono donne in burqa, scritte inneggianti all'Islam radicale, le scuole abbandonate senza acqua potabile e carburante. Pagina 4 di Avvenire è il racconto di ciò che ha fatto la BBC. Siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Eccolo qua, oggi vince Andrea Scanzi sul Fatto Quotidiano a raccontare a pagina 2 che dopo Celentano, che abbandona la sinistra per Salvini, dopo Ivano Fossati che abbandona Renzi, anche Roberto Vecchioni che dice mi piace Giorgia Meloni e non la sinistra. Il cantautore non è più di sinistra. Ma chi se ne frega? Ladies and gentlemen, and now, Alessandro Milan. Che devozzino via fuoco. Milan, il cagnas randaggio dell'informazione. Se fossi tua moglie, quante botte ti darei? Quando parli, sembri laureato in tuttologia, sai tutto tu. Quando sono le 8:21 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, cari ascoltatori. Allora, devo dire che ieri quando ho preso in mano la stampa e ho letto questo titolo, picchiavano una disabile e lei restava a guardare, prof sospesa per 20 giorni. Beh, la mia prima considerazione è stata questa, ma come un insegnante, secondo quello che si scrive qui, sta immobile a guardare mentre tre alunni picchiano una ragazza compagna disabile, sputandole anche addosso? E la punizione, invece che dire gentilmente a questa signora guardi, forse è il caso che si trovi un altro lavoro, perché quello di educatrice, se è vero che un insegnante deve fare anche l'educatrice, non fa proprio per lei. E invece no, la punizione è 20 giorni, ben 20 giorni di sospensione e decurtazione del 50% dello stipendio, che per carità gli stipendi degli insegnanti non sono altissimi, lo sappiamo, ma voglio dire, mi sembra che sia una punizione un po' attenuata. Comunque, quando si parla di queste cose nella scuola si sa che le polemiche ci sono sempre. È incredibile. Comunque di questo parliamo, di questo episodio avvenuto in un istituto alberghiero a Varallo Sesia attorno a gennaio. Un episodio che divenne celebre anche perché alcuni alunni immortalati dal solito telefonino di turno picchiano una compagna disabile. C'è anche un video che lo trovate su YouTube. Basta. Vabbè, sono le urla concitate di una ragazza picchiata. A un certo punto le sputano anche addosso i compagni, con lei che dice ma mi sputano prof, e la prof che si aggira lì, vabbè, cercando di fare qualcosa, ma dopo tutto non riesce a fare molto. Parliamo di questo. 800 24 00 24, voglio salutare Mario Rusconi, buongiorno. Buongiorno. Che ho scoperto essere andato in pensione, o dover andare in pensione, è vero, professor Rusconi? Sì, però insegno all'università adesso e rimango sempre interista. Però va bene. Rimane sempre interista, cioè c'è il ravvedimento, c'è tutta una vita ancora davanti per ravvedersi. Comunque Mario Rusconi, lo conosciamo, storico preside al Newton, comunque anche vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi, questo rimane? Sì. E insegno però appunto all'università come si organizzano le scuole, sperando che rimangano ancora in piedi le scuole, questo è il fatto. Allora saluto anche l'avvocato Alessandra Guarini, avvocato buongiorno. Buongiorno a lei. lei, anzi buongiorno a voi. Lei è avvocato di una delle ragazze che è insomma responsabile dell'aggressione a questa. Esatto. A questa... Io rappresento la ragazza che nel video di cui lei ha parlato pochi istanti fa colpisce al braccio la compagna disabile. Ecco, ragazza che tra l'altro spedì una lettera a lei e finì anche una lettera sul Corriere della Sera. Noi ne abbiamo spicherato, come si dice in qualche in gergo radiofonico, una parte, alcuni concetti che la sua assistita Greta aveva voluto mettere in chiaro. Sono Greta, ho 15 anni. Sono la ragazza che tutti voi state dipingendo come un mostro. Le persone che mi conoscono sanno che non sono una ragazza violenta, anzi, purtroppo sto attraversando un brutto periodo e a volte, presi dalla rabbia e dal nervoso, si fanno cose che non si vorrebbero fare. Io ho sbagliato, sicuramente, ma credo anche che chiunque si meriti una seconda possibilità. Sono molto pentita per ciò che ho fatto. Io non sono una bulla. Quello che sto passando io è sovrumano. Mi state facendo passare e sentire come una ragazza che ha ucciso. Ognuno merita una seconda opportunità. A maggior ragione se si è capito l'errore commesso. Allora, avvocato, intanto partiamo dalla questione che a me ha fatto un po' sobbalzare sulla sedia, cioè la sospensione per 20 giorni, però forse non è la questione che a lei interessa in primo piano, no, avvocato Guarini? Sicuramente la mia priorità è la difesa di Greta. Greta in questo momento è indagata insieme ai suoi compagni di classe per questo episodio e quindi senz'altro il mio impegno è rivolto principalmente all'assistenza in giudizio. Per quale reato? Ma Greta risponde di percosse, di ingiurie, risponde fortunatamente di reati minori, ma questo nulla toglie alla gravità di quello che si vede nel video, no? Mi pare del tutto evidente. Quindi al di là del fatto che i capi di imputazione siano poi non particolarmente gravi, resta grave il fatto, ecco, mettiamola così. Questo sicuramente. Ecco. Ma mi faccia capire, perché alcuni alunni sono stati sospesi, non certo. Nel caso di Greta? Oppure no, come no, Greta è stata allontanata in via definitiva dalla scuola. Sì. Le hanno proposto una serie di attività collaterali e rieducative, ma certamente Greta è stata allontanata. Ma devo dire che al di là del provvedimento della scuola, prima ancora è arrivata la decisione dei genitori di togliere Greta dalla scuola, perché Greta è diventata la seconda vittima di questa vicenda. Perché dice vittima? Sì, perché dopo la diffusione del video Greta è diventata la seconda vittima, ha ricevuto minacce di morte, minacce gravissime, ha ricevuto giudizi sprezzanti da parte anche di adulti, non solo di adolescenti, sui suoi profili Facebook, sui social, anche a scuola. E quindi questa situazione ha indotto non solo i genitori ad assumere dei provvedimenti, ma la stessa procura minorile se ne è dovuta occupare. Certo. Sì, qui c'è l'aspetto sia degli studenti, professor Rusconi, sia degli insegnanti. Allora, professor Rusconi, posso chiedere a lei, da dirigente scolastico, certo, che ne pensa di questa sospensione 20 giorni? Tra l'altro la scuola, o meglio il provveditorato, fa sapere che è anche un provvedimento molto duro, perché in genere la sospensione è di 10 giorni e non di 20. No, la sospensione di 10 giorni può darla il preside, a proposito delle pistole che ha il preside sceriffo secondo i sindacati, al massimo 10 giorni per fatti gravi. Dai 10 giorni, dagli 11 giorni ai 6 mesi può intervenire solamente il provveditorato, l'ufficio regionale. Ma direi che si tratta, anche questi 20 giorni dati dall'USR del Piemonte, è una misura cautelare, nel senso sospensione, in attesa di vedere quello che succederà, e spero che sia grave il provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria. Sì. Perché si configurano dei reati molto gravi da parte dell'insegnante, perché secondo me per due motivi fondamentalmente. Da una parte l'insegnante ha contribuito ancora una volta ad appannare l'immagine della scuola, dei docenti e così via, ma la cosa più grave è il fatto che l'insegnante ha permesso che sia stata lesa la dignità di una persona e soprattutto di una persona disabile. Questo è sicuramente gravissimo. Io spero appunto che l'autorità giudiziaria interverrà. Nel momento in cui l'autorità giudiziaria interverrà anche con una sanzione penale, Ministero dell'Istruzione può intervenire anche con il licenziamento del docente. Ma perché solo dopo? Cioè, nel senso, queste io non voglio fare nessuna gogna mediatica, ma sono una certificazione queste immagini e anche questo provvedimento già preso che questa insegnante, forse l'educatrice, non è proprio il suo lavoro. Scuola, tenga conto che la scuola, l'ufficio scolastico, il preside, eccetera, non sono appunto un tribunale. È già importante che sia stata presa una misura cautelare. Secondo me poteva essere presa anche una misura più pesante, oltre ai 20 giorni, perché si può sospendere fino a 6 mesi. Nel frattempo si spera che però, come dicevo prima, l'autorità giudiziaria intervenga pesantemente. Vorrei però sottolineare una cosa: nella scuola, sia presidi sia soprattutto gli insegnanti, quando vincono un concorso, ammesso che siano ammessi per concorso, perché adesso con la buona scuola dovrebbero essere ammessi in ruolo 100.000 persone senza alcun concorso, probabilmente, tranne alcuni che lo hanno vinto nel passato, non esiste per insegnanti e anche per i presidi un esame psicoattitudinale in una professione che invece prevede che la relazione, potremmo dire psicodinamica, vi permetta, sia un elemento fondamentale. Sì, come si dimostra in questi casi, visto che c'è una ragazzina disabile che viene picchiata da 4 persone, 3, 4 compagni, e insomma, evidentemente gestire queste situazioni bisogna saperle gestire. Al di là di quello che farà il giudice, probabilmente, esprimo un mio giudizio personale, questa persona insegnante non è in grado di fare l'insegnante, perché se tu non padroneggi quella situazione, puoi conoscere alla perfezione matematica, fisica, latino e greco, ma non essere in grado di fare l'insegnante. Anche allora, perché queste situazioni si verificano più spesso rispetto al passato, forse, non lo so questo. Sì. Allora io dico, i sindacati che hanno portato in piazza migliaia di persone, perché non chiedono anche che ci sia l'esame psicoattitudinale per presidi e insegnanti? Cioè, alcune che sarebbero riforme a costo zero, ma che potrebbero veramente migliorare l'efficienza del servizio scolastico, come mai non vengono presi in considerazione? Probabilmente prevale, diciamo, adesso la logica di scontro politico che con la scuola ha molto poco a che fare. Sì, avvocato Guarini, certo, devo dire che molti ascoltatori che scrivono messaggi capiscono poco o accettano poco la questione della sua assistita che passa come vittima. Posso capire che la gogna mediatica ci sia stata, ma certo, una gogna mediatica è come dire se l'è andata a cercare. Ma questo non giustifica la violenza. No, questo noi, senza dubbio. Allora, noi dobbiamo stare attenti, sempre con grande pacatezza, a censurare ogni forma di violenza. Fosse pure una sacrosanta ritorsione, resta pur sempre una violenza che non possiamo in qualche misura legittimare o comprendere, che poi arrivi da un minore o che arrivi da un adulto, forse anche peggio, ecco, dobbiamo dire che violenza non va bene. Ora, volevo dire che sono molto d'accordo con il dottor Rusconi sul fatto che è grave anche il comportamento dell'insegnante, perché l'insegnante che assiste e non interviene sostanzialmente legittima quei comportamenti prepotenti e per paradosso ne diventa quasi un incentivo. I ragazzi non capiscono che è sbagliato se nessuno glielo fa notare. Infatti l'insegnante ne paga, però ne sta pagando le conseguenze. Poi sì, si può, però voglio dire, mentre la mia cliente se le ha assunte, pur avendo 15 anni, il giorno dopo i fatti, scusandosi, facendolo pubblicamente, ecco, le scuse dell'insegnante non sono ancora arrivate, o perlomeno non ne sono a conoscenza io, può essere che ci siano e io non lo sappia, semplicemente. Voglio però così chiedere al dottor Rusconi un parere invece sul ruolo dell'istituto, perché dal mio punto di vista c'è anche una responsabilità più alta, ad un livello superiore. Mi riferisco anche agli obblighi organizzativi. Cioè, una responsabilità della scuola, secondo lei? Per quello, ma assolutamente sì. Spiego anche perché. Allora, la classe di Greta è una classe ghetto, io l'ho definita tale. È una classe dove hanno messo tutti gli studenti ripetenti e in più la ragazza disabile. Ora, se tu formi una classe così, crei tutte le condizioni perché si possano purtroppo verificare anche fatti di bullismo. Cioè, lei dice, hanno fatto una classe in cui ha messo dei ragazzi un po'... Era una miscela esplosiva. Con un rapporto con la scuola già un po' problematico e una disabile. Una miscela esplosiva. Una miscela che io ho definito esplosiva. Dopodiché, ripeto, la mia cliente le sue responsabilità se le ha assunte nella lettera davanti al magistrato. Gli adulti di questa vicenda non lo hanno ancora fatto, quindi faccio notare la differenza. Ma in ogni caso quello che mi preme è sottolineare l'importanza di sfruttare questa vicenda per veicolare un messaggio positivo e dire attenzione, dirigenti scolastici. Attenzione insegnanti, siete voi il mondo adulto di riferimento. Beh, questo è interessante comunque come lettura, professor Rusconi. Ecco, non sappiamo esattamente com'è la composizione della classe, ma stando all'avvocato c'è anche una responsabilità. Ecco, io direi che ci sono due tipi di responsabilità: una responsabilità penale anche della scuola se per caso qualche insegnante era al corrente di queste vessazioni nei riguardi di questa povera ragazza, se ne era al corrente lo stesso preside, e allora c'è una responsabilità penale di insegnanti, eventualmente del preside, ma non sono io a poterlo dire, nell'avvocato sarà appunto l'autorità giudiziaria. Poi c'è una responsabilità, come citava prima l'avvocato, una responsabilità di tipo professionale che non può essere, diciamo, sanzionata penalmente, vale a dire la scuola nel formare le classi deve avere il parere e i criteri collegio dei docenti e del consiglio d'istituto. Se collegio e consiglio, perché il preside non è semplicemente, adesso come adesso io ho detto in molte interviste, un notaio nella situazione scolastica, se la scuola ha formato una classe di quel tipo, vuol dire che i criteri dati dal consiglio d'istituto, dove ci sono anche i genitori e gli studenti nelle scuole superiori, e del collegio dei docenti, no, non erano giusti, erano folli dal punto di vista. No, vabbè, ho capito, ma però definire, allora lei un conto dice se erano al corrente già di qualcosa, è chiaro che è una cosa grave, ma definire, come dice l'avvocato, il fatto che ci fossero dei ripetenti, una disabile, cioè una miscela esplosiva, questa forse è una linea un po' più difficile, sì, da far passare, perché non è che uno, certo, che è ripetente per questo è un violento. Nel momento in cui un organo democratico come il consiglio d'istituto, il collegio dei docenti ha stabilito dei criteri, possono essere, diciamo, criticati, ma sono criteri che vanno applicati poi dal preside, non è che può inventarsi con le classi per conto proprio. No, questo sì, avvocato, cioè perché c'erano, avvocato Guarini, c'erano dei segnali, oppure il fatto che fossero dei ripetenti, lei come dice, no, c'erano dei segnali, erano tutti ragazzi problematici, assolutamente noti agli insegnanti, al preside, erano ragazzi con tutta una serie di problemi anche di condotta, ma voglio dire, credo che la magistratura ci consegnerà alla fine anche, diciamo così, più risposte rispetto alle domande formulate. Temo che qui gli scenari saranno molto più ampi e anche più disastrosi. E questo lo vedremo. Però per concludere, avvocato, lei che ha parlato con Greta, la sua assistita, ma io capisco tutto, un adolescente che scrive vive un momento di difficoltà. Quale adolescente non passa un momento di difficoltà? Voglio dire, tutti gli adolescenti in quell'età vivono grandi turbamenti. Certo. Ma che gli è saltato in mente? Cioè, voglio dire, ha chiesto scusa, eccetera. Però, come no, guardi, non solo la mia cliente ha chiesto scusa. Sì, ma perché l'ha fatto? Lettera? Cioè, lo ha fatto per esasperazione, la mia cliente lo ha spiegato al magistrato piangendo e raccontando che lei è arrivata a quel gesto per esasperazione, perché in quella classe capitava di tutto ed era difficilissimo perfino fare lezione. Era per esasperazione uno picchia un disabile. Ma assolutamente no, tant'è che Greta di questo si è scusata ed è questo l'errore commesso. Ed è la sua presa di coscienza il miglior risultato che abbiamo ottenuto. È ovvio che non si fa, e lei lo dice apertamente, non c'è giustificazione, l'ho detto prima, io non la giustifico, ma neanche Greta si giustifica, ma quando le si chiede perché, lei dice purtroppo è capitato perché quel giorno non mi sono trattenuta, ma prima di quell'episodio, ha ragione il dottor Rusconi, ce ne sono stati altri, segnali c'erano tutti, in quella classe erano tutti a turno un po' vittime e un po' diciamo carnefici, sì. Era una classe particolarissima e quindi, insomma, ed era difficile rimanere in quelle dinamiche, come dire, sopravvivendo in qualche modo. E quindi insomma, ma questo lo vedremo magari più avanti quando torneremo su questa vicenda. Io per il momento mi devo fermare e vi ringrazio, l'avvocato Alessandra Guarini, che come detto ha difeso Greta insomma in questa vicenda che abbiamo raccontato, e il preside professor Mario Rusconi, interista imperterrito nonostante insomma si stia cercando di farlo ravvedere. Professor Rusconi, grazie ovviamente, buona giornata, e torneremo su questo tema dopo la pubblicità. Invece parleremo della questione immigrazione, avremo ospite il prefetto Mario Morcone, che è il capo dipartimento libertà civile e immigrazione al Ministero dell'Interno, si occupa di questo proprio, di gestire tutta la questione migranti d'Italia dal punto di vista del ministero. Tra poco. State ascoltando un programma offerto da. Con la rete Interplanet, il tuo business cresce alla velocità della fibra. Interplanet.it. Allora, a leggere i giornali la questione immigrazione è sempre molto molto presente, anche perché, come scrive oggi il Corriere della Sera, dall'Unione Europea non ci sono grandi segnali, cioè pare slittare il piano del ricollocamento dei migranti nei vari paesi europei, un piano che era stato messo a punto e che slitta da luglio, forse verrà applicato a settembre, e intanto noi dobbiamo gestire una situazione complicata. Ne vogliamo parlare con una persona che ha un punto di osservazione molto privilegiato, perché è al Ministero dell'Interno, è il capo Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione. È il prefetto Mario Morcone, che ringrazio per essere con noi. Prefetto, buongiorno. Buongiorno e benvenuto. A voi. Senta, allora, ha visto che molti governatori, soprattutto quelli della Lega al Nord, si oppongono all'invio di migranti. Lei che ne pensa di questo tipo di opposizione politica? È legittima dal loro punto di vista oppure no? Ah no, io capisco che questo è parte di un confronto politico molto forte, molto duro, forse anche in vista dei ballottaggi che si terranno e comunque di contrasto al governo, ma è una questione che evidentemente non riguarda noi operatori, i prefetti sul territorio che facciamo il nostro mestiere e ci assumiamo solo la responsabilità di trovare soluzioni adeguate e civili a chi arriva in Italia. E tra l'altro non so se ha saputo, ma addirittura il leader della Lega Salvini ha dato l'elenco dei numeri di telefono delle prefetture dicendo ai cittadini: chiamate, intasate di telefonate a dire che non vogliamo questa situazione. Ma questa è una cosa che mi piace ancora meno, e mi dispiace che l'onorevole Salvini, voglio dire, arrivi a fare tanto rumore e soprattutto a mettere in difficoltà gli uffici, perché so che qualche prefettura ha avuto problemi di collegamento per le telefonate. Ah, c'è qualche prefettura che è stata intasata? Sì. Quale, sì, per esempio? Ho sentito qualche collega, però francamente insomma, mi sembra un grande rumore che ha un piano diverso dal nostro lavoro. Un piano che è il piano del confronto politico, mentre noi naturalmente ci occupiamo e continueremo ad occuparci l'aspetto pratico di trovare soluzioni di accoglienza. Ecco, ma quali sono queste soluzioni? Cioè, è vero che si legge requisire caserme, si legge, ci spieghi un attimo come intendete operare? L'abbiamo detto già molte volte, l'abbiamo ripetuto molte volte. Noi, d'accordo anche con l'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani, abbiamo provato fin dal primo momento e continuiamo a provare con testardaggine e forti delle nostre ragioni, voglio dire, di trovare un punto di condivisione sulle scelte che si fanno sul territorio. Sono stati costruiti, immaginati e anche praticati dei tavoli regionali di confronto tra chi ha la rappresentanza, i comuni, le regioni e i prefetti capoluogo di regione. Proprio perché nessuno vuole imporre nulla a nessuno, ma perché si punta comunque ad una intesa condivisa, sì, dove e sul come accogliere i migranti. Però, prefetto Morcone, mi scusi, se l'intesa non c'è, cioè laddove un sindaco dice io non li voglio, ci faccia proprio capire tecnicamente qual è l'autorità che prevale, il prefetto e dunque il ministero o il sindaco che dice io qui non li voglio? No, è evidente che comunque i prefetti dovranno trovare le soluzioni. Le troveranno meglio se con i sindaci, anzi lotteremo fino all'ultimo per convincere i sindaci anche più riottosi e alla fine, se questo non è possibile, ma solo se questo non è davvero possibile, si troveranno soluzioni diverse attraverso evidentemente le associazioni no profit, attraverso l'organizzazione della curia, ma la via migliore è anche nel nostro progetto di accoglienza nazionale, lo SPRAR, cioè l'accordo con i comuni, sono i progetti comunali finanziati, sì, dal Ministero dell'Interno. C'è qualche regione che ha diritto, dice, e a titolo per dire noi ne abbiamo già troppi, voi avete tutte le quote? Ma in ce base ne sono tre, certo, ce ne sono tre in particolare. Sì. Sicuramente la Sicilia, come lei sa, che a questo punto ospita oltre il 20% dei migranti arrivati. C'è il Friuli Venezia Giulia, perché c'è una rotta ormai, che è una nuova rotta che si va stabilendo attraverso i Balcani all'est, e quindi persone che arrivano anche dalla Slovenia e dall'Austria, attraverso anche molto spesso Bulgaria ed Ungheria, e il Friuli quindi riceveva prima non solo gli sbarchi da sud, ma anche le persone che filtravano dai confini dall'area Schengen, dall'Austria e dalla Slovenia. E poi c'è chi comunque ha partecipato e partecipa con grande serietà e con grande impegno a tutto questo, che sono certamente Puglia, Campania, Lazio, la stessa Calabria. Quindi diciamo più le regioni del sud, però le regioni del nord dicono: ma noi abbiamo già una quota di immigrazione regolare, questa, cioè non i nuovi arrivi, ma tanti immigrati che assorbiamo come forza lavoro. Ma gli immigrati regolari sono cittadini che pagano le tasse e che contribuiscono allo sviluppo di quelle regioni, anzi forse danno, come molti studi hanno dimostrato, Fondazione Moretti in testa, che danno più di quanto ricevono come contribuzione allo sviluppo economico. Quindi non possono essere coinvolti in questo tipo di... No, non mi pare discorso. Proprio, al contrario, sono un elemento di ricchezza di quelle regioni, non un elemento di sofferenza. Io ho citato la questione europea, ma è vera, cioè risulta anche a voi che in Europa slitta questo piano e questo potrebbe complicare le situazioni? Io sarei più cauto, nel più senso cauto. Che certamente è una fase di negoziazione nella quale ci sono frenate da parte di alcuni paesi. Ci sono resistenze antiche, si tratta di superare un vincolo fondamentale che poi è la vera rivoluzione di questa agenda europea, cioè passare dalla volontarietà dell'accoglienza degli stati alla obbligatorietà. E questo passaggio non è un passaggio facile e non è un passaggio facilmente accettato da alcuni paesi. Su questo si sta discutendo in maniera molto intensa, ma io punto molto sull'impegno del Presidente Renzi e del Ministro Alfano e anche sulla disponibilità della Cancelliera Merkel, che si è esposta nel precedente Consiglio dei Capi di Stato e di Governo e che mi pare sinceramente più aperta di altri leader europei meno simpatici. A chi si riferisce? Francia e... Beh sì, anche a quelli che comunque eserciteranno l'opting out, cioè che si tireranno fuori dalla decisione comune. Dalla decisione comune. Prefetto Morcone, io nel ringraziarla, però l'abbiamo chiamata per questo argomento, ma oggi lei, come lei sa, ha fatto già dichiarazioni, il suo nome è su tutti i giornali, anche perché per esempio il Messaggero racconta in questa vicenda cosiddetta di Mafia Capitale, finisce anche il suo nome. Il Messaggero racconta che lei avrebbe fatto delle pressioni per assumere la figlia del segretario regionale del PD Melilli. Naturalmente non è assolutamente vero, anzi rigorosamente falso. Io semplicemente non ho mai negato di conoscere Odeven, l'ho conosciuto già a Roma da vice capo di gabinetto quando sono stato Luca Odeven, che poi è finito agli arresti. Sì, che è il punto di svolta di tutta questa storia. Io ho semplicemente rappresentato, quando l'ho incontrato, credo a luglio, gli ho detto se era possibile o dove lui poteva consigliare di fare un tirocinio gratuito, e questo per fortuna ma per chi questo? Per figlio di Melilli? No, per il figlio di Melilli, mio non si era manco laureato, quindi parliamo di nulla per la figlia di Melilli. Ma una presenza gratuita che peraltro non si è realizzata, capisci? Quindi parliamo veramente di nulla. Non si è neanche realizzata perché la figlia di Melilli, che poi è un mio vecchissimo amico, il Partito Democratico non c'entra niente. Io sono stato prefetto a Rieti dal 93 al 95, quindi sono amico personale, indipendentemente dalla politica, di Fabio Melilli, ed era il consiglio per un tirocinio della figlia che non si è realizzato, quindi praticamente parliamo di nulla. Ma evidentemente rispetto a vicende epocali come quello di cui abbiamo parlato prima, cioè l'immigrazione, e rispetto anche a vicende gravissime e profonde quali il malcostume a Roma, evidentemente il fatto di parlare con Luca Odeven, però lei dice quando ne parlavo ovviamente non potevo immaginare che poi scoppiasse tutto questo bubone, visto che lui è finito l'ha conosciuto da tutti, è stata una sorpresa amarissima per molti e non solamente per funzionari, anche se di grado elevato come il mio, ma anche per moltissimi vertici politici che sinceramente mai potevano immaginare questa maschera drammatica di Luca Odeven, che è stata veramente uno sconcerto per molti di noi. Intanto io la ringrazio ovviamente, buona giornata per la questione immigrati, che è ovviamente una questione che rimane molto calda. Il prefetto Mario Morcone, che ripeto è il capo dipartimento libertà civili e migrazione al Ministero dell'Interno, colui che al Ministero dell'Interno gestisce tutto questo dossier molto molto delicato. È il momento del traffico. E allora, cari ascoltatori, abbiamo parlato di scuola, di questo episodio di bullismo, eccetera. Abbiamo parlato di immigrazione, come sempre, con i vostri messaggi al 349-238-6666. C'è chi critica, c'è chi accusa, c'è chi dice fate bene, c'è chi dice fate male, evviva. Noi, io è vero, non li leggo spesso i messaggi in onda, ma perché c'ho davanti Twitter, Facebook, la telefonata, l'intervista con gli ospiti, c'ho la faccia di Peter Bescapè in regia che oggi festeggia i suoi 24 anni. Hai detto 24 anni, voi capite che tenere conto di tutto. C'ho anche Lorenzo Nespoli in redazione, che è un po' come tronista di Uomini e Donne, e capite che è tutto un po' difficile da tenere sotto controllo. Ma come al solito, come da un po' di tempo, chiudiamo con quella che è la nostra segreteria telefonica. Noi abbiamo una segreteria che risponde al numero 02-4652-4492 ed è a vostra disposizione, potete dire ciò che volete. Dice che in fatto di accoglienza migranti il Lazio sia tra le regioni virtuose, dopo essersi spartiti tra Buzzi e Carminati. Mette dice in confidenza che gli non piena la scuffia de tu squeche sulla petta in de su e de ciodo, ma perché gan la lingua in bocca. Sono sveglio di già, sono sveglio di già per sentire Alessandro Milan. Ma sti politici non se posso, non se ne vuole più di sti politici. La zappa non basta più, la gallienna, ci vuole la gallienna. Per i vitalizi prendono migliaia di euro al mese, dicono facciamo ricorso, ricorso, senza altro ricorso. Porci, maiali, schifosi. Vabbè, questo era l'editoriale stringato di un nostro ascoltatore. Comunque 02-4652-4492 se volete il numero per la nostra segreteria telefonica. Ci potete seguire come volete, eh? Su Twitter io sono Alino Milan, quello è il mio profilo. Ci siamo anche come 24 Mattino, sia su Twitter sia su Facebook. Sul sito anche radio24.it ci sono contenuti extra, ci sono tante cose che arricchiranno la vostra giornata. Allora, da Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi e Lorenzo Nespoli, insieme all'alpino Peter Bescapè, che oggi festeggia 24 anni, vi diamo appuntamento a domattina 6:30. Oh!